Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telespro. Pomeriggio da Giorgio Telesforo, questo è il Soundcheck di Radio 24, nostro ospite oggi per parlarci della bellezza del suono di uno strumento meraviglioso, potremmo definirlo anche uno strumento giovane perché è stato inventato nel 1930 da Lawrence Hammond, poi messo in commercio nel 1935 e quindi vi parliamo dell'organo Hammond. Fra gli specialisti di questo strumento meraviglioso in Italia c'è il maestro Alberto Marsico che oggi è nostro ospite e ti ringrazio per aver raggiunto Radio 24 e il nostro Soundcheck. Buon pomeriggio Alberto. Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Alberto è reduce da successi bellissimi ottenuti nell'ultima edizione di Umbria Jazz Winter a Orvieto praticamente qualche settimana fa, successi ottenuti con il suo trio nel quale milita Fabrizio Bosso e con il quale hanno dato vita a una pubblicazione molto bella per la Verve distribuzione Universal, album intitolato Purple, che credo sia il secondo o terzo progetto con questa formazione per celebrare gli spiritual, così come stanno facendo grandi artisti in questo momento a partire da Bobby McFerrin e tutta anche la nuova ondata di musicisti contemporanei che si rifanno alla tradizione. Come mai l'idea di celebrare con il tuo organo Hammond gli spiritual insieme a Fabrizio? Beh, la musica gospel e la musica spiritual ovviamente richiama l'organo Hammond, io lo suono da tanti anni e ovviamente suono molto spesso questo tipo di musica. Mi è sembrato molto naturale, conoscendo le attitudini molto comunque vicine a un modo di suonare tradizionale di Fabrizio, proporgli di eseguire alcuni arrangiamenti che ho fatto io di brani spiritual gospel. E questo è stato il nostro primo disco che si intitolava Spiritual Trio. Poi a novembre del 2013 è uscito Purple, che è il nostro secondo album e nel quale suoniamo anche qualche pezzo di gospel più moderno. Infatti la title track Purple è di Donnie McClurkin. Allora, tanto per raccontare agli amici di Radio 24 la storia dell'organo Hammond, perché l'organo Hammond è vicino agli spiritual? Perché l'organo Hammond è stato inventato dal signor Hammond proprio per aiutare le piccole parrocchie di provincia negli Stati Uniti a suonare la musica da chiesa, visto che non si potevano permettere grandi strumenti come gli organi a canne che troviamo qui in Europa, allora inventò l'organo Hammond, uno strumento senz'altro trasportabile allora, e oggi è un po' più complesso mettere in macchina l'organo Hammond perché è fatto di vari elementi. Per portare tutto l'organo Hammond ci vuole che cosa? Un pulmino quasi. Ci vuole tanta buona volontà e un furgone, sì, questo è vero. È uno strumento complesso anche da un punto di vista meccanico. Il signor Lawrence Hammond era un inventore e l'idea dell'organo Hammond arrivò dopo aver inventato un orologio meccanico digitale. Che cos'è? Digitale no, che cos'era? Un orologio come? È stato il primo orologio elettrico. Lui ha brevettato l'orologio attaccato alla rete elettrica che funzionava con un motore che lui chiamava motore sincrono, che in pratica dopo 10 anni è diventato l'embrione del motore che fa girare l'organo Hammond, che siccome deve essere sempre mantenuto all'accordatura di 440 Hz il La, allora serviva un meccanismo molto preciso, allora lui ha applicato questo motore sincrono dell'orologio all'organo Hammond. Eh sì, perché per suonare l'organo Hammond bisogna essere molto precisi perché ha un mare di funzioni, perché si possono cambiare suoni, si possono dare espressioni diverse e l'organo Hammond poi dalla chiesa è passato sui palcoscenici dei jazz club, dei blues club e oggi è uno strumento che è tornato in auge anche perché molti musicisti della nuova generazione hanno ricominciato a suonarlo e a studiarlo, perché bisogna bisogna studiare molto bene anche il meccanismo dell'organo Hammond per capirlo al 100%. È un signore che ha aperto una strada, è stato sicuramente The Incredible Jimmy Smith, che qui ascoltiamo in una sua versione di I Can Get No Satisfaction, il vecchio successo di Rolling Stones, qui al soundcheck di Radio 24. Satisfaction. Dell'organo Hammond suonato dal maestro Jimmy Smith, I Can Get No Satisfaction, in questa puntata dedicata all'organo Hammond ma anche alla figura di uno dei migliori organisti italiani nel mondo, Alberto Marsico, nostro ospite oggi. Soundcheck, il suono della musica. So get it up, baby. Stop leading me on. Please stop leading me on. Please stop leading me on. Please stop leading me on. Please stop leading me on. Joy Di Francesco con il suo organo Hammond con Stop Leading Me On qui al soundcheck di Radio 24, una puntata dedicata a questo meraviglioso strumento con ospite qui al soundcheck di Radio 24 uno specialista di questo strumento nel nostro paese, il maestro Alberto Marsico, reduce dai successi di Umbria Jazz Winter con Fabrizio Bosso per la presentazione di questa nuova pubblicazione Verve Universal intitolata Purple con lo Spiritual Trio. Allora, parlavamo dell'organo Hammond, Alberto, per suonare l'organo Hammond bisogna avere anche un equilibrio particolare sullo sgabello, perché il musicista deve utilizzare il piede sinistro per fare le linee di basso, anche se poi con la mano sinistra essenzialmente si fa lo stesso lavoro, però coi pedali si fanno i contrappunti, giusto? È così che funziona? Giusto, cioè il piede sinistro accentua quello che la mano sinistra fa, quindi le linee di basso. Poi il piede destro sta sul volume e quindi l'equilibrio è sempre precario effettivamente, però gli organisti ci sono abituati. Ecco, ci sono abituati, e poi vedendo un organista in azione si nota che molto spesso, e questo è il termine tecnico, smanetta sui drew bars. Cosa sono i drew bars? I drew bars sono in pratica quello che c'era sugli organi liturgici, sono le varie armoniche di tutte le note, quindi con i drew bars, che sono 9, l'organista può creare delle combinazioni sonore e quindi dei colori infiniti. Ecco, ma è un caso che la maggior parte degli organisti hanno questa stazza, forse perché proprio il fatto di avere il peso li tiene stabili sullo sgabello, visto che devono assumere una posizione abbastanza precaria e complessa? Secondo me è essenzialmente una questione alimentare, per quanto mi riguarda lo è. Ok, allora andiamo ad ascoltare la title track di Purple, una composizione scritta dal bravissimo Donnie McClurkin, qui rivisitata da Alberto Marsico insieme a Fabrizio Bosso e Alessandro Minetto, formidabile anche lui alla batteria, e un coro gospel meraviglioso che è il Sunshine Gospel Choir. Soundcheck, il suono della musica. Protagonista del soundcheck di oggi è l'organo Hammond, con nostro ospite uno dei migliori specialisti italiani, il maestro Alberto Marsico, reduce da grandi successi ottenuti nell'ultima edizione di Umbria Jazz Winter a Orvieto, proprio con Spiritual Trio, la formazione che condivide col nostro Fabrizio Bosso alla tromba e Alessandro Minetto alla batteria. E oggi qui al soundcheck, proprio per presentare questa pubblicazione distribuita dalla Universal con etichetta Verve, album intitolato Purple, dedicato quindi agli Spiritual. Beh, insomma, anche una bella soddisfazione avere un album pubblicato da un'etichetta così, così importante, Alberto, no? È un'esperienza incredibile. Erano i dischi che ascoltava mio padre quando io avevo 10 anni, quindi Verve per me è un sogno. È un sogno, sicuramente è un sogno, lo hai vissuto anche quando hai visitato gli Abbey Road Studio a Londra. E che studi erano? E dimmi chi metteva le mani sull'organo Hammond che hai suonato lì. Era lo studio 2, quello dei Beatles, e ci ha messo le mani i Beatles, poi i Pink Floyd, Brian Auger, e per me è stata una esperienza indimenticabile essere solo nello studio a registrare un organ solo su quell'organo lì. Allora, Alberto Marsico, nostro ospite, gustiamo un'altra traccia tratta da Purple, questa nuova pubblicazione. Questa è proprio una tua composizione che si intitola Wishy Washy, giusto? Esattamente. Grazie ad Alberto Marsico, ospite del Soundcheck oggi, per presentarci Purple, nuovo album con Fabrizio Bosso, un album per la Verve al quale ha partecipato anche l'eccellente batterista Alessandro Minetto. Salutami Alessandro, salutami Fabrizio, quando li vedi. Avete senz'altro tanti concerti da fare in questa stagione proprio per suonare la musica presente in Spiritual Trio. Alberto, ti ringrazio tantissimo, in bocca al lupo per la carriera e per tutto. Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Chiudiamo con un altro organista, Larry Goldings, qui con John Scofield in una composizione intitolata Let Cat Out, tratta da Groovelation di John Scofield di qualche anno fa. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, ci risentiamo domani sempre qui su Radio 24 alla solita ora. Buon pomeriggio e buona musica da Gegé Telesforo. Soundcheck, il suono della musica.